Il vescovo Cirillo, impassibile, si fa largo verso di noi, protetto da una decina di monaci preceduti da un gigante dai freddi occhi chiari. Chiede ai pazzi un colloquio privato. La mia maestra acconsente, ma c'è una strana atmosfera in questo freddo pomeriggio. Non mi fido. Anche Oreste mi fissa preoccupato e allora sono io a dettare le mie condizioni al patriarca. Lui può farsi accompagnare da tutti i monaci che vuole, ma al colloquio con i pazzi dobbiamo presenziare anche io e il prefetto Augustale. Il vescovo accetta senza fare commenti. La gente non si disperde, disponendosi ad attendere in silenzio. Entriamo. Faccio accomodare tutti nell'aula magna. Cirillo siede attorniato dai monaci che l'hanno seguito. Accanto a lui il gigante dagli occhi chiari, a mani enormi e dita con lunghissime unghie arcuate. Ipazia resta in piedi accanto a me. Ha freddo, preferisce tenersi il mantello sulle spalle. Una mezza dozzina di trilumi sono accesi, le fiammelle tremolano, la luce è incerta. Oreste, con due curiali, siede alla nostra destra, quasi in disparte. Molto meglio che sia presente anche il prefetto Augustale. La voce del vescovo è alta, estesa e la sua eco prolunga a dismisura l'ultima parola. Potrà testimoniare all'imperatrice reggente quello che adesso dirò a Ipazia filosofa. E incastra a mo' di fibbia le mani nervose, molto grandi rispetto alla sua piccola corporatura. Fa per rivolgersi alla mia maestra, ma Oreste protende una mano per richiamare l'attenzione. Prima di ogni altra cosa approfitto di questa occasione per rinnovare la richiesta che già ti ho fatto numerose volte, vescovo. Per il bene della città, fai tornare ai conventi della Nitria questi monaci. E punta un dito accusatorio verso i parabolani che circondano Cirillo. Stanno scatenando una vera guerra ogni giorno a causa loro, saccheggi, violenze, morti. Ormai la situazione sta sfuggendo di mano sia a me che al comandante delle forze militari. E il suo tono ansioso è impregnato di rabbia. Il vescovo libera le mani dal suo modo di tenerle giunte e si gratta la fossetta in mezzo al mento, fissa freddamente il prefetto. Poc'anzi hai ascoltato le parole di questa donna e osi asserire che i disordini che si sono verificati ad Alessandria sono colpa dei monaci? E la sua faccia pallida sembra accendersi di indignazione. Questa donna non è una filosofa, non è guidata da alcun canone di verità. Questa donna vuole il potere, solo il potere. Chi detiene il potere ad Alessandria? Il vescovo e il prefetto? Noi due, Oreste. Ma lei parla alla gente, lei istiga la gente alla ribellione, istiga te contro di me. Lei scende in mezzo al popolo ormai quasi ogni giorno, in ogni angolo della città e con la storiella del canone della verità. Con la facezia della potenza della ragione insegna solo una cosa, a disobbedire al potere costituito, a disobbedire a me e a te, prefetto Augustale. Ma se tu sei disposto a far calpestare la tua autorità, t'assicuro che io non lo sono. Qui non si tratta di dogmi, dell'inferiorità o meno del figlio rispetto al padre, della preesistenza o meno delle anime rispetto ai corpi o dell'apocatastasi finale. Qui non si tratta di una diversa concezione della vita, del canone, della fede o della verità. Qui si tratta di potere, di assalto al potere, di difesa del potere. Ma a Costantinopoli ancora non capiscono che per conservarlo è molto più saggio affidare il controllo delle anime a noi vescovi piuttosto che ai filosofi pagani. L'eco della sua voce prolunga a dismisura la parola pagani, producendo la sensazione di pericolo che Cirillo voleva conferire all'ultima frase. A Costantinopoli ci sono ancora cattivi consiglieri che favoriscono leggi in aiuto ai ribelli che si nascondono sotto il mantello della filosofia, e getta un'occhiata eloquente al prefetto Augustale. E Ipazia a richiamare l'attenzione del vescovo. Ma se hai le idee così chiare su di me e sugli avvenimenti attuali, perché hai voluto parlarmi? E atteggia le labbra in un chiaro segno di stanchezza. Perché io non faccio le cose a metà come il defunto Sinesio. Io conosco i miei compiti, io non lascio nulla di intentato per trovare altre soluzioni. Sei tu, Ipazia, la causa di tutti i disordini che accadono ad Alessandria, così come i tuoi discepoli Davide e Samuel erano i veri sobillatori della comunità giudaica. E dopo tanti morti, grazie all'appoggio della giovane imperatrice, mi sono finalmente liberato della piaga dei giudei. Ora resti tu e i pagani, tu che con questo movimento degli elleni Stai mirando in alto. Tu hai occupato la piazza, lo spazio degli uomini, con la storia di voler liberare il tuo popolo. Tu, in realtà, vuoi liberare la donna dai suoi doveri e dal suo destino, voluti da Dio. Tu brami il potere assoluto. Tu vuoi comandare vescovi, papi e imperatori. Tu pretendi che il comando della terra venga affidato a te, ai tuoi compagni del centro studi e a tutti i filosofi come voi. Tu vuoi che la guida degli uomini non sia il Vangelo, ma il trattato della teoria atomica di Democrito. Tu non vuoi che la gente si rassegni a morire. Tu le vuoi dare addirittura una speranza, la speranza di combattere per non morire. Tu insegni a disobbedire, non a obbedire. Tu insegni a dubitare, non a credere. Tu, una donna. E scuote il capo, in un gesto di sconforto e con un'espressione di amara compassione sul volto. Solo l'uomo è in grado di imitare il dominio di Dio sull'universo. Solo l'uomo, quindi, può godere del privilegio della signoria sul resto del creato. Con una mano si stropiccia i lunghi baffi spioventi. Eppure, io ho una proposta che potrebbe far cessare disordini e tumulti. Tu, Ipazia, ti converti al cristianesimo e per il bene della tua città e del tuo paese te ne vai in un convento di Agostino a Cartagine. In quel convento potrai scrivere e studiare quanto vuoi, ma da sola, e potrai leggere anche qualche testo che potrebbe finalmente illuminarti. Potresti apprendere che se il ruolo della donna ebrea, pagana e del mondo intero divenisse quello della perfetta donna cristiana, l'umanità potrebbe finalmente aspirare a un equilibrio e alla pace. La donna, come predicava Giovanni Crisostomo, non deve mai essere in disaccordo con l'uomo, non deve ascoltare discorsi sconvenienti, non deve gettare sguardi sfrontati, come stai facendo tu, Ipazia, in questo momento. La donna deve indossare abiti modesti e far sì che sul suo volto, creato apposta e incline alle lacrime e al dolore, non appaia nemmeno l'accenno di un sorriso. E la donna può anche aspirare al perdono, al ritorno a Dio, al suo riscatto, ma solo aiutando l'uomo, soddisfacendo gli appetiti coniugali dell'uomo, mirando in alto, ma non come hai fatto tu, Ipazia, mirando al potere, bensì alle virtù degli uomini beati e sforzandoti di mutare la tua natura femminile inferiore e corrotta. Occhi che non offrono indizi di emozione alcuna. Se accetterai, domani stesso il mio piccolo esercito di monaci tornerà nel deserto della Nitria. E nelle iridi appare un barlume freddo, malevolo. Ipazia è rimasta a bocca aperta per la sorpresa. Scuote la testa, tarda a rispondere. Non voglio annoiarti con una lezione di filosofia, Cirillo, ma ascoltando e vedendo te, penso al male. Io non credo all'esistenza in natura del bene e del male, ma se dovesse esistere, tu sei l'incarnazione del male. E con questa premessa puoi intuire la mia risposta. Io resterò fedele al mio modo di pensare. Ricercare la verità. Non avrò mai dubbi, starò sempre dalla parte degli oppressi e sempre contro chi vuole opprimerli. Lotterò per la libertà di pensiero e qui ad Alessandria da 7 secoli si sta giocando una battaglia che può decidere il futuro del genere umano. E se qualcuno ha voluto tutto questo, 44 anni fa ha pensato bene di far nascere noi due nella stessa città, di darci pari opportunità di studio, di ricerca. Ed eccoci qui, uno contro l'altra, a lottare per cambiare il mondo. E scuote la testa, un sorriso malinconico e fiero sul bellissimo volto. Ho rinunciato a tutto nella mia vita, Cirillo, a tutto, a essere moglie, amante, madre, ad avere una famiglia. Tutto per servire la mia libertà di pensiero. Non ho mai tradito e non tradirò mai coloro che contano su di me. Cirillo si alza e abbandona l'aula, sul volto appena un ghigno, un freddo tremolio del labbro inferiore. Si allontana, protetto dallo stuolo minaccioso dei monaci parabolani. Ai curiali e al prefetto offro del vino e dei dolci al miele mentre lui si attarda a parlare con Ipazia, amareggiato per non essere stato più deciso con il vescovo a proposito della permanenza dei monaci parabolani in città. La situazione sta degenerando, avete fatto male a rientrare da Antiochia. Nel mese che siete stati fuori sono accaduti eventi gravissimi, e tra i primi ad essere cacciati. Avevo convocato un'assemblea popolare nel teatro e uno degli sgherri di Cirillo sempre attivo nel fomentare discordie, tale Ierace, maestro elementare, fece di tutto per scatenare una rivolta contro di me e contro i giudei. Lo fece arrestare e bastonare. Purtroppo non servì a nulla. I giudei reagirono, ammazzarono parecchi cristiani e Cirillo ebbe finalmente il grande pretesto per farla finita, una volta per tutte con loro. Scatenò il suo esercito di monaci assassini. Fece radere al suolo le sinagoghe, li depredò di ogni avere, quelli che si opposero li fece giustiziare, tutti gli altri li cacciò da Alessandria. Cirillo ed io inviamo una relazione alla corte di Costantinopoli che appoggiò l'operato del vescovo. E Cirillo ha avuto la tracotanza e la falsità di volersi riconciliare con me, mentre io non ho potuto che rifiutare. E così lui ha colto l'occasione per dimostrare che io avevo appoggiato i giudei che avevano ucciso i cristiani. Il volto del prefetto lascia trapelare tutto il suo rammarico. E così questa città ha perso 50.000 giudei, un'intera comunità. Alessandria è diventata più povera. Ipazia si stringe addosso il mantello nero, a freddo, ma il suo volto continua a essere illuminato da quel bagliore che, seppur velato di nobile tristezza, è il segno della sua volontà indistruttibile. Non puoi rimproverarti niente, Oreste. Hai assolto pienamente al tuo dovere. Tocca a noi, ora, vedercela con il vescovo. Tocca a noi risolvere la questione sul ruolo da assegnare alla ragione o alla religione. Prendo il mio cavallo e accompagno il prefetto, lasciando i pazzi a parlare con la folla. Mi sono accordato con Nicandro per recarmi al mio ritorno con un carro nei sotterranei del Serapeo per prelevare quanti più rotoli e codici possibile. I pazzi ed io abbiamo deciso di dividere il nostro segreto con i pochi compagni rimasti. L'oscurità sta inghiottendo Alessandria. Sta calando una foschia fredda, umida. Io faccio da scorta alla carrozza in cui si è sistemato Oreste con due curiali. Gli altri, una decina, ci precedono di qualche passo a piedi. Proprio in fondo a Via del Sole, prima di giungere alla tomba di Alessandro, ci sono dei giardini, un lembo di verde orlato di tigli. All'improvviso, dal buio delle siepi, sbucano decine e decine di monaci parabolani assieme a un codazzo formicolante. Gridano come forsennati, circondano la carrozza del prefetto, prendono a insultarlo, levando urla assordanti. Sacrificatore, maledetto pagano, amico di colei che pratica la musica e la magia, nemico della croce, e cominciano a colpire con pugni e calci il carro. Sfilo il pugnale, Oreste si sgola per far capire loro che lui è cristiano, battezzato dal vescovo Attico a Costantinopoli. Mi fa cenno di non intervenire. Grida ai curiali attorno a lui di non rispondere alle provocazioni. Potrebbe essere una trappola tesa dal vescovo, ma vengono ugualmente assaliti. I curiali attorno alla carrozza si difendono, mentre una nuvolaglia di monaci cristiani circonda anche il mio cavallo, minacciandomi perché sono il braccio destro di colei che pratica la magia. Davanti a me Oreste è protetto dai curiali. Gli grido di raggiungermi, cerco di spronare il cavallo, mi bloccano, mi strattonano. I due curiali sul carro, laceri e feriti, lottano strenuamente per difendere il prefetto, ma Ammonio, un monaco che gli altri acclamano come loro capo, assieme a un gruppo di compagni scatenati, riesce a farsi largo tra i curiali, ad avvicinarsi al prefetto e a colpirlo con una pietra alla testa, mentre gli altri lo incitano ad ammazzarlo. Il gruppo di curiali lotta fino allo spasimo, ma i monaci sono un branco impressionante. Comincio a fendere l'aria attorno a me, ferisco delle mani protese, affondo la lama in una spalla, sprono il cavallo e riesco a saltare la nuvolaglia infame che spinge me e l'animale verso il giardino. Sono costretto a tornare indietro per Via del Sole, raggiungo la gente che sta ascoltando i pazzi a gran voce, accenno rapidamente quello che sta accadendo e tutti prendono a correre verso i giardini. Chi ha il cavallo salta in groppa e mi segue. Raggiungiamo la carrozza. Ammonio, pietra in mano, lotta contro un curiale. Oreste ormai versa in un lago di sangue. Balzo giù dal cavallo, mi faccio largo col pugnale tra gli altri monaci che fanno ressa attorno ai due, ne ferisco uno alle spalle, poi un altro ancora. Urlo. Quelli che m'hanno seguito riescono a disperdere la nuvolaglia infame coi cavalli. Piombo addosso ad Ammonio, gli strappo la pietra dalle mani, cerco inutilmente di tramortirlo con un pugno, lo affido ai miei, gridando loro di seguirmi, me lo strappano dalle mani. Afferro il prefetto sanguinante ma ancora vivo, lo carico sul mio cavallo, la gente urla, vogliono linciare Ammonio. Mi metto a gridare: fermatevi, Cirillo sta aspettando proprio questo, non lo fate. Oreste è coperto di sangue, ma respira. Salgo anch'io sulla groppa del cavallo e mi dirigo lentamente verso la casa di Pazia, scortato da una decina di uomini a cavallo. Altra gente accorre, altra moltitudine grida, mentre la notizia comincia a correre per le vie della città. S'accendono fiaccole, la gente riconosce il prefetto insanguinato, corre, grida contro Cirillo e i suoi monaci assassini. Quando raggiungono il centro studi, Ipazia sta per venirmi incontro. Salta giù dal cavallo, mi aiuta a portare dentro Oreste. Centinaia di persone restano fuori a presidiare la casa. Ipazia comincia a pulire il sangue dal volto e dalla testa del prefetto. È vivo, farfuglia, apre gli occhi, è addolorato. Grazie, Shalim. Ma hai salvato la vita. Che è successo a quel diavolo scatenato? E la sua voce è accorata. È vivo, sta qui fuori, in mano alla gente che è venuta in tuo soccorso. Subirà un processo secondo le leggi, ora senza perdere tempo, e si libera delle mani di Pazia nonostante le sue proteste. Lo accompagniamo, lo spiazzo è gremito di folla, altra gente sta arrivando. Ci sono anche i curiali, molti sono feriti. Due soldati imperiali tengono stretto ai polsi Ammonio, costringendolo a stare in ginocchio. L'energumeno ha un'espressione sprezzante sul volto e fissa con arroganza il prefetto che si è avvicinato a lui. Oreste sanguina ancora la testa. Rischi la pena di morte, Ammonio, questo lo sai. Ma potrei anche essere generoso, fare un'eccezione, a patto che tu qui, davanti alla gente di Alessandria, a voce alta mi dica la verità. Chi ti ha spinto a fare questo? E perché? Ansima, ha la toga sporca di sangue, è malfermo, Ipazia l'ha raggiunto e ha il volto sconvolto. Gli sfiora una manica, ma Oreste sta inchiodando il prigioniero con uno sguardo indagatore, la sua attenzione rivolta solo a quel volto feroce e arrogante. Risparmia la tua generosità, prefetto. Chi fallisce una missione non merita pietà. E scuote la criniera folta con espressione torva. Ma il patriarca potrebbe anche perdonarmi, anzi, potrebbe farmi addirittura santo. E con uno scatto fulmineo si libera, afferra la daga del soldato alla sua destra, lo colpisce mentre questi accenna a reagire e si lancia in avanti verso Ipazia. Pugnale in mano mi getto alle sue spalle mentre la belva ha gettato a terra Ipazia e sta per trafiggerla quando affondo la lama del mio pugnale nella gola di Ammonio. Non muore. È un gigante, si gira, è un demonio. Mi ferisce a un fianco mentre gli pianto il pugnale nel cuore. Allora stramazza al suolo. Aiuto la mia maestra a rialzarsi. Non le è accaduto nulla. Poi sono io ad aggrapparmi a lei. Tremando, mi strappa la tunica per guardarmi la ferita che sanguina. I curiali ci raggiungono, ci accompagnano dentro. Ipazia prende un unguento, mi fa sdraiare sul letto e comincia a medicarmi. Occhi infebbrati di angoscia e di amore. Mi lascia per andare a medicare Oreste e gli altri. Il pugnale ormai non è più sufficiente a difenderla. Il Nilo, gonfio di sangue, sta per straripare.